la bombola. Chi c'era? Ciao ciao, alle prossime. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Operatore Gavin al Mike, buonasera. CQ27075, operatore Gavin al Mike, buonasera. Mike su Buonasera. Ciao Giovanni, buonasera. Buonasera Gianni. Buonasera Giovanni. Hai l'eco un po' barattoloso. La radio è 4 perché è barattoloso. Il segnale fa un passaggio, sta fischiando, si è abbassata la radio, il segnale qua da me 9.30, ma siamo vicini. Tu come mi copi a me di lì? Più che altro mi sa che hai problemi di microfono, tu, Giovanni. È positivo, dai. Oh, non lo so, sono entrato adesso dal lavoro e niente. E sono entrato adesso, dai. Non ho sentito nessuno. Sì, però devo dare giù questo problema perché c'hai degli dischi molto forti, eh. E lo so, però la radio è quasi incomprensibile con questo innesco, eh. Segnale c'è, il segnale è il tuo, però la radio è quasi incomprensibile. Non lo so, vedi un po' tu cosa fare. Hola my friend, starting your mic, good morning. Hola. Ehi, prova radio, sì, prova. Buonasera, operatore Gabriel Mike, c'è qualcuno? CQ27075, operatore Gabriel Mike, buonasera. CQ27075, operatore Gabriel Mike, Nord Sardegna, buonasera. CQ27075, operatore Gabriel Mike, Nord Sardegna, buonasera. CQ27075, operatore Gabriel Mike, Nord Sardegna, buonasera. Gabi, ci sei? Ciao Gianni, buonasera. Ehi, buonasera Gabi. Lo sai perché non c'ero? Perché l'ho spostato, però i canali di... E dei piani superiori? Mi sono dimenticato di metterlo a posto. Ehi, va bene. Io ho fatto un paio di chiamate, ma non c'era nessuno, quindi mi sono messo a fare altro. Io non ho risposto proprio perché ce l'avevo acceso, ho chiamato anche io, però era nel canale di solito. E sono rientrato, infatti come sono rientrato il tuo giro un pochino a farmi due chiacchiere, ho fatto un paio di chiamate, ho fatto 6-7 chiamate anche, però non c'era nessuno. Come va Gianni? Tu che ieri sera ho finito tardi, ho mandato il messaggio e ho finito tardissimo, ero dilaniato. Io l'ho fatto più di 600 km. Che sera? In Grecia sei lontano. Vabbè, lavoro, capi cosa devi fare. Anche a me una volta a Lula me ne stavo andando e mi hanno detto ti vieni dalla Bibbia, usate a Vendrace alla costa a prendere un frigorifero. Che me ne stavo andando e avevo già finito di lavorare, capito? Cado su cotturrato dalla costa con questo frigorifero che sporgeva, mi hanno dato tubature che mi uscivano dal telone perché sono andato col 40 e apre. Cazzo, uscivano dal telone, erano legate allo specchietto dietro, figurati quanto uscivano. E il frigorifero lo stesso che sporgeva. Oh, guarda, ho avuto una grana che non mi hanno fermato. Sono arrivato a Porto Torres e mi ha detto, questo qui da portare a Sintino adesso, cazzo erano così, erano venuti, e io sono stanco, cazzo è tornato, lo so Gianni, ma è da portare a Sintino, lo devono piazzare, ci sono i frigoristi che stanno aspettando. Cazzo. Oh, avevo finito, avevo fatto lavoro doppio, e ho lavorato anche più delle ore che dovevo fare. Straordinario, bisogna farlo di tanto, ma capita, è un problema. Luglio ho finito che erano le 5, 5 e un quarto, ce l'ho fatta a casa che avevamo le 7, non qui, bugia, se meno 10, un po' mi sono riposato perché oggi ho fatto pochi chilometri, ma molto lavoro fisico qui, ho detto adesso. Mi ha fatto la luce, mi sono riposato e poi ho acceso facendo con l'incubo già, com'è? Cioè va bene. È meno aggressivo del tempo, di vero? No, va bene comunque, è una radio da salotto. Ma io sono sicuro che se ci metti l'MC60 a pompa forte. Sì. E al momento la lasciamo così. I soldi servono per altro. Infatti. Poi spendere soldi per questa frequenza che non va mai nessuno. Ma prima si stava popolando, adesso di colpo non c'è più nessuno. Già due giorni, ieri non è entrato nessuno. Sì, già. La sera cosa ti dico, meglio pochi ma pure. Meglio pochi ma pure. Io come sono libero, io entro, lo sai, io ce la faccio, rientro. Facciamo un bel QSO, poi ripeto, dopo cena sono sempre, io sono sempre in radio, perché mi metto qua in camera e faccio le mie cosette, faccio i miei esperimenti, però sono sempre in radio, chi vuole entrare, cioè chi vuole entrare. Se vuoi entrare o secondo chi è, rispondo, secondo chi è, neanche prendo e rispondo. Non ho problemi, quindi quando se vuoi fai chiamata, io 8:30, 9:15, sono sempre in radio. Infatti adesso se lei era a portare il cane, quindi ho potuto, sono potuto entrare anche adesso, capito? Perché sennò questa è l'ora che porta il cane, l'ha voluto portare la mia compagna, il cane, visto che era vestita, ha detto la porto io. E sulle feste che ci ha fatto quando siamo tornati, non finiva più di saltarci addosso. Poverini, anche a me quando rimangono tu fuori, prende tutti e due, arriva, sono contenti, caspita, non mi lasciano un secondo. È così, il cane, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Te le fa. Molto meglio di certe persone, dai. Perché secondo l'amico Ghetti va di la bocca da ridere guai, invece il cane non si azzarda minimamente. No, il cane, guarda, lo puoi trattare anche male, è sempre affettuoso, oh, poverino. Non hai visto quelli che hanno trovato scuriati a Gioscari? A Gioscari sarebbe di fronte dove c'è, come si chiama, l'IMS, di fronte ci sono quelle traverse su, e lì è Gioscari. Intanto trovano a loro spogliati già. Il karma non conosce né sabato né domenica, capito? Quindi quella gente la paga già. La protezione animale ha messo 5.000 euro di taglia per chi trova e chi dice chi sono. Sì, già si trovano, che intanto per 5.000 euro uno tradisce anche la madre. Secondo chi tradisce anche la madre, quindi lo trovano. K. E poi hanno scoiato sia un levriero che un barboncino adesso, l'ho trovato anche un barboncino. E quando l'hanno detto? Al telegiornale l'hanno detto e poi al telegiornale di Vidiolina. Li hanno fatti vedere, li hanno fatti tutti a pezzi, però li hanno coperti per non fare impressione, dai. L'hanno coperto con delle cose scure. C'era anche su internet. Miserabile. Vabbè, guarda già, io se dovessi vedere una persona facendo una cosa del genere, o se non divento cattivo. Per quanto sono bravo divento cattivo e mi rimane 2 minuti in mano. In mano, vero santo, mi rimane in mano tutta. Il tempo di quante la luce delle scale mi rimangono. Quanta luce delle scale mi rimangono in mano già. Niente, perché li faccio male, ma senza pietà. Sono bastardi, poi sono due cani di razza anche, vabbè che non c'entra nulla, però sono anche di razza, quindi l'hanno presi da qualche posto, non lo so. Uno è un levriero, perché è andata la veterinaria dell'ASL a controllare, uno è un levriero e l'altro è un barboncino. Sì. quelli sono i cani di qualcuno che stava dando fastidio lì, magari abbaiando, facendo, e gli avevano fatto fare così, capito? Però queste persone qua non hanno mai una vita, diciamo, longeva. Queste persone qua muoiono sempre di malattie e di infortuni, magari sai, qualche tumore, qualche cancro, io. Neanche al peggior nemico, però se in certi casi bisogna anche guardare in faccia al karma, non hanno una vita longeva le persone che fanno queste schifezze, perché non sono neanche atti vili, sono schifezze. Io quando sento queste cose e ricevo una pugnalata, perché guarda, io sarei capace di fare male a una persona, ma non a un animale. Io non sono capace neanche di ammazzare una cimice. Pensa tu cosa ti sto dicendo. Perché sono esseri indifesi, capito? Dovrebbero trovare un animale che si gira, tipo, già ti posso dire, un pitbull. E quando glielo stai facendo ti si gira e ti prende bene la gola. Cazzo, allora sì, ma... Io la farò mia a vedere se ce la fanno. C'è il fornese che quando apre la bocca, l'apertura della bocca è quanto la mia cuscia. Sono 55 kg quasi di cane che ti arrivano di colpo. E quel cane non fa meno di 40 km orari correndo. Allora sono arrivati, nuovo. E bello il fatto di questi cani qua, come quello dicevo, che non abbaiano, ti lasciano fare, ma non abbaia veramente, ti lascia fare per ti prendere la sconfidata, e così la paghi. Io sono tranquillo per quello. E poi non c'è cosa di prendere, dice, ma se vogliono entrare fanno, e vabbè. Il cane può entrare quando sei da solo, ma quando ci sono due cani, uno prende e ti controlla e l'altro è nascosto e tu non entri. Dovevo trovare cani così o come hai detto tu, pitbull, che prendono e ti fanno la festa, di quei bei mastiff, belli seri, 60 kg, quelli che quando ti danno il morso hanno 500-600 kg di presa a bocca, ti fanno nuovo ti fanno. Io non capisco questa gente senza cuore. Io ho pensato anche che fossero i cinesi, ma se l'avrebbero presa la carne, invece li hanno fatti a pezzi e l'hanno lasciato la testa da una parte, pezzo del corpo dall'altra, capito? Hanno fatto tutte le aspettative. Sì, perché sono persone che magari ce l'hanno con qualcuno, gli hanno preso il cane, gli hanno trovato in giro, magari la cosa che rimane, gli hanno pisciato le ruote della macchina, mi segui, o magari qualche iscritto dice con lui che magari col padrone non sono in grado di prenderlo, però lo sa preso con i cani. Però non bisogna neanche prendere, queste sono persone malate di mente, capito? Sono persone malate di mente. Non la pagheranno adesso, perché non è una cosa imminente, però o la paga il figlio, o la paga la moglie, o la paga qualcuno di famiglia. Guarda, sono sicuro che gliela fanno pagare, ma non persone fisiche, il karma, il destino gliela fa pagare, la provvidenza, fidati. Io conosco una persona che il cane gli teneva chiuso il recinto, che prende, gli trattava male, faceva, è un cacciatore. Adesso lo sai come esce. D'estate, in ombrello in sciarpina, è poco torno. Non ti preoccupare che la paga. Poi i cacciatori già ce l'hanno questo vizio, li fanno diventare magri, i cani non li danno da mangiare, li fanno diventare magri, li tengono chiusi nei recinti, nei box. Non sono di tenere gli animali quelli, però averli così è meglio non tenerli, sono proprio macchine, capito? Macchine. Sì, vabbè, se non cacciano un renno, oppure quando il cane non va bene lo sparano. Oh già, io ho la cena pronta, me dovrei scusare, però ho anche fame. c'era anche la bambina, noi mangiamo tutti assieme. Ma dopo ci sei interrogativo. Sì, già accendo dopo, dai, non ti preoccupare. Io sto aspettando, mi sono fatto, ci siamo fatti qua giù due panini con Elena, perché ci avevamo la roba da stamattina, ma quella lì la conserviamo. E ci mangiamo due panini stasera, dai. Uno con il wurster e l'altro con l'hamburger. E io, noi è arrivata la pizza adesso. E quando abbiamo voluto prendere i frutti di mare, siccome ho allo scoglio, siccome non, le pizzerie non servono a niente, prepariamo il sugo di gamberi noi, ci prendiamo la margherita e ce la mangiamo col sugo di gamberi fatto da noi, serio, e almeno ci accontenta. Se no, se la vogliamo normale, melanzana e così, la prendi pronta, però con la roba di mare noi facciamo così, perché non sono in grado di farla. Già io mezz'oretta, tre quarti d'ora, sono di nuovo reperibile, sono in radio. E dai, se ci sentiamo dopo. Non ne mangiare panino di più, perché fa male. Alle 8:30 mi arriva, non è una volta, però mi piace un bel... Alle 8:30 mi arriva, capito? Quindi io penso che per le 9 ci sia, dai. Vai tranquillo, tu quando è finito, io sono in radio, sono qua in cameretta, intanto. Fatti sentire, fai la chiamata, io sono qua in radio. Quando vuoi, non ti preoccupare. Ciao Gianni, buona cena, ci sentiamo dopo. E io, ciao, ciao, Gabi, ci sentiamo. Chiara, molto bella, tonalità medio-alte, ricca e bella, bella, bella. Ecco. come mai stanotte? In Ginella? Ma noi ci siamo quasi di notte. Quasi di notte non siamo errati. Davvero? Non lo sapevo, guarda. Caspita, se no mi facevo una scappatina. Di notte anche. Caspita. Perché di giorno non è giocato bene. Non sto più accendendo, sto spento. Adesso sono salito, così mi accendo un po' il televisore qua. E così ho acceso la radio. Sì, anche Gianni adesso tra un po' entra. Anche Gianni doppio rumo entra tra un pochino. E anche io di giorno non so tempo fra, sempre lavorando, e quando esce alle 6:30, alle 6 che vince a quell'ora, si fa la luce a cui arrivano un po' con la famiglia, i cieli, e poi la notte magari ti dedichi un pochino alla radio per rilassarmi. No, di giorno neanche a me mi viene bene, a volte magari sono libero di martedì o di mercoledì e l'accendo da mattina, che sono a casa, che faccio cosettine. E allora sì, però gli altri giorni non ce la faccio. È importante andare, esserci ogni tanto, dai, più che altro, esserci ogni tanto, e già va bene. Io, siccome questo qua sta parlando dei problemi, questo microfono, e allora sto facendo il connettore aperto, le chiavi, adesso è evidente che ho trovato il punto giusto, ho trovato e vedo che sta andando bene a quanto mi dici tu. Insomma, ok, poi più tardi me lo dico, non c'è fretta. No, fra, guarda, ti ripeto, poi io ti posso dare i controlli che vuoi, guarda, possiamo fare dei controlli anche con il ricevitore, però già con questo qua, se ti dico che è quello, non c'è da sbagliare, perché con un game magari ti può dare quello che vuoi, però con questi qua, questi apparecchi qua, sì, con una botte di ferro, quasi 9,50, 9,40, picchia 9,50 la radio da me, che su per 5 siamo vicini, no, vabbè, però... vicino, se saturi qua e ti sento subito. Quello è logico, perché se uno attacca qualcosa poi va a saturare e ci sente subito, perché siamo troppo vicini, diciamo. No, io non uso lineari, ne ho tre lineari, non ne uso neanche uno. Che vengo bene così, ma neanche per sassari. Io mi questo qua già ottengo in ricezione, capito? Questo 737 lo tengo in ricezione, però ho detto stasera lo uso, così giro anche un po' i finali, va, scaldo un pochino anche la radio, e la faccio modulare un po' il 27 stasera, questa qua la tengo più o meno in ascolto io sui 40-80 mila, dai tutta la banda HF, però stasera ho deciso di farla. La trasmettere. Tu considera che io adesso sto trasmettendo con un'antenna filare, frae, non sono con una verticale, io sono con un'antenna filare con una longevity di 30 metri, molto costruita da me. Io ce l'ho una filare, però mi si è rotto tutta la scatola, però non avevo qua. Riceveva tanto, non riceveva, era fatta però per altre frequenze, sia 30, da 10, dai 10 a 80 mila, è fatta, però ok, me l'ha data, ma poi non so perché io non ricevevo niente, non ricevevo, e probabilmente ci vanno un palo. E io gli ho messo un toroide da, un toroide l'admin, il 200T2, gli ho fatto un palo 9:1, l'ho installata a V invertita sul traliccio dove c'è la reazione, e ho 1:1, 1:1, 1:2 su tutte le bande, ho fatto un palo in un certo modo, e poi ho fatto il choc per il ritorno di red. E niente, sto trasmettendo con questa, che ti sto descrivendo. Vabbè, ce l'ho in favore a Source, perché è proprio di taglio verso Source. Però, guarda, cosa, è tutta un'altra cosa dalla verticale, da quello che si QRM è zero, ed è tutto così, volati. Con questo mi arrivi 9.5, però come ti ho detto poco fa, non spizza che non è, perché del Galaxy non è, non va bene, però mi dovresti arrivare almeno 9.40, 9.45. Sì, per forza devo arrivare così, anche perché tu sono un po' di battito, io sono 15 watt di portante bianca e 32 modulati, sono 32-33 modulati, quindi già dovrebbe arrivare. Certamente. Aspetta che provo a attaccare la Grazioli a vedere se va un attimino. Franco. Adesso sto uscendo con la Grazioli. Guarda un pochino. No, guarda, il segnale è sempre lo stesso. Aspetta un attimino. Che cambio radio, un attimino. Allora, questa è ok, aspetta. No, ma non ti preoccupare. Mi senti con questa? Positivo, un po' più cupo, però ti sento bene anche con questa. Fa passaggio. Ok, vedi un po'. Così adesso riesco, ti do un segnale più. Questo è il C80 della Cable con l'MC60. Caspita, qua sei pieno, sei quasi 9.60, quasi 9.60, fra. Questo è 9.30, 9.30 picchi 9.40. È positivo, adesso sto usando una Grazioli, sempre con l'ICO. Va bene, caspita. Ti ascolto come radio, è perfetta, il segnale è lo stesso, è buono. Adesso metto di nuovo il dipolo, adesso metto di nuovo, diciamo, la filare, aspetta. Eccomi, buonasera a tutti. Buonasera Gianni, ben ascoltato, salutone. Ciao Franco, come va questa radio? Perfetta, radio 5, 95... 595 K, questo qui è il Galaxy con l'MB più 4 K, bella radio, bella tonata. No, io anche io poco fa stavo usando il Galaxy, poi ho cambiato qua per dare il segnale a Davide. Dunque c'è il contrario, il Galaxy è l'unico che dà i segnali giusti. Non mio, Gianni mio vuole portarlo a fare controllare. Adesso è entrato. Ciao Gianni, buonasera. Questa è più bassa il segnale, 9.20 a picchi 9.30. Questa qua la filare, fra. Buonasera Gianni. Fra, questa qua la filare. Ciao Gavi. Adesso, aspetta. Hai visto? Direttamente di cavo. Diciamo che ci sono 15-20 euro di spesa. Perché? Come mai c'hai 30 metri di cavo? Scusa Gianni, un attimino. Perché per ricevere in tutte le bande, perché io la uso in ricezione, capito? Per ricevere in tutte le bande ci vogliono 30 metri di cavo, o 16 metri e 20 o 30 metri per affilare, sì. Perché non è un dipolo. Un'antenna affilare. O sono 16 metri e 20, o sono 30 metri, o sono 48 metri o 54 metri di cavo. Ah, cappola, anche questo non lo sapevo. Avanti Gianni. Gavino fa sempre esperimenti. Ciao Gavino. Beh Gianni, allora? E allora amici, ci siamo ingurgitati il panino. anche noi la pizza. Vabbè dai, adesso ci dedichiamo un po' alla radio, mi entra anche l'amico Franco che sta là, facciamo delle prove. Avanti Franco. Purtroppo, cosa vuoi fare? Aspetta, che pizza, che panino, io avevo mangiato una bella mattina e mezzo litro di vino. No, io stasera avevo proprio voglia di mangiare un panino. Avevamo anche la roba cucinata lì, ma abbiamo preferito mangiarci un panino. Va bene, a volte io non ho voglia di tanta roba e allora mi faccio anche un'insalata. Con un'insalata macchie fino avanti. Sì, sì, anche io. Io primo non ne mangio quasi mai. Qualche volta solo, dai. Qualche volta che lo fa, ma è difficile. La domenica mi più che altro. Capo, io non sono di quei primi. Io sono sui secondi e insalata. E a maggior parte. Però a volte anche il primo ci vuole. Avanti, Gabino. Sì, anche noi, però vabbè, io a pranzo già sono fuori, però la notte un primo, un secondo è frutta. Ti metti anche un'insalata, sì, un'insalata. E poi una bella camomilla e annanna. Una bella camomilla e annanna. E vabbè. Si campa, si tira a campare, si tira a campare. Vai già. E che viene già sempre, no, capito? Di brutto, vado, ma la mezz'ora mi porto un poco di carne a ruscio, e domani sono libero, e faccio qualche lavoretto qua a casa, do una passata di spugliatore, e poi nel frattempo faccio il fuoco e un po' di carne arrosto. Domani lo bevo anch'io un bel litrotto di vino, così mi ricordo che mi si tocca, l'abbiamo mangiato. Vai, fra. Per le prospettive. Sì, Gianni, sono progetti questi, sono progetti, sì. Vai, Franco. Vai. Lascia vedere se Gianni mi ascolta così. Gianni, mi ascolti così? È certo che ti ascolto. Ecco, buongiorno Galax. Galax è più la... l'usciure. L'usciure, scusa. Però non rende come dovrebbe l'usciure. Di solito va più forte. Ma non so, non è un tipo solo di usciure. Sono altri tipi. Questo... è bombato, come è situato. Però come radio dicono che va bene. Sì, diciamo che non è di quelle radio aggressive, ecco. È tranquilla per fare salute. Guarda, ti dico una cosa, aggressiva a me non è che mi piace tanto. Che... non devi metterti in trasmissione, magari c'è quello che ascoltare, invece c'hai una tonalità e basta. Allora ma già va bene, dai. Gabi. Franco. Vieni avanti, Gabi, dai. C'è tutto a Gianni. Positivo. Franco, mi cuffi. Sì, che ti cuffi. Adesso io sto usando uno Shure. Ha cambiato la modulazione. L'altra era più chiara. L'altra era più chiara? Sì. Vero già. Questa è più da... ha più bassi. Non è che non sia chiara, ha più bassi. Da combattimento questa qua, vero? Sì, è più... diciamo che la limpidezza è meglio l'altra, come limpidezza. Lo sai cos'è questo già? Sì. Questo qua è 3009 con lo Shure. Franco, questo qua è 3009 con lo Shure. Ascolta, la Shure, ma di quelli per campare oppure di quelli proprio per baracca? Questa qua è bella, perché se picchi i denti. Dice picchi i denti. Ormai è comprensibile anche questa, bella, vabbè. Lo so. Vai Gianni. Ehi. Sento delle portantine strane. Forse qualcuno che vuole entrare. Avanti chi vuole entrare, buonasera sul canale 10 in compagnia di Gianni De Bruno, di Franco Il Sorso e Gabino Joker. Tutti in modalità CB, coordinate Nord Sardegna. Avanti, buonasera, per chi vuole entrare sul 27075, compagnia di Gianni del Perino e Gianni del Fianco di Sorso, Gavino, Joker, Nord Sardegna, avanti. Niente, non vuole entrare nessuno, vediamo se ci sono delle portanti prossimamente. Avanti Gianni. Ok, no, erano portantine basse, un bip, capito? Sentivo un bip e basta, tutto lì. E niente, capi. Stasera ero tutta la sera in giro. Me ne sono tornato tardi oggi a casa. Maledetto. E visto che ho mandato un messaggio dell'antenna, anche la mia, che è bloccata a Trapani. Sì, ho visto. Ma questa addirittura hanno scritto che praticamente stava ritornando al venditore, capito? Vuol dire che l'hanno rotta. Vuol dire che l'hanno rotta o hanno perso l'accompagnamento, o hanno perso la bolla. È un casino, la mia ferma da lunedì a Trapani. Ci ho mandato il tracking, e lui come. E vabbè, aspettiamo. Altrimenti abbiamo perso quell'altrimenti, ho perso 40 euro. Però speriamo che si blocchi qualcosa. Niente, Franco, ho ordinato un'antenna, una Firenze 2. Ma Firenze io ho trovato in Sicilia, nuova, spedita, e già ho andato in tracking e tutto, è ferma a Trapani da lunedì, l'ho comprata perché è un'occasione, mi è venuta una quarantina di euro spedita, quindi è mai installata, una Firenze 2, un'antenna, tu già la conosci, che volevo provare per, dai, è un'antenna ad altri tempi, per fare più che altro le comparazioni, non per... per niente, però è ferma. Caspita, la Firenze 2 è un'antenna buona, caspita, è 40 euro, e neanche usata, caspita, hai fatto una parola, se a quanto ho sentito se te la mandano, ma speriamo di sì. No, l'hanno mandata, l'hanno spedita, è già, c'ho anche il tracking, capito? Solo che è bloccata a Trapani, lui l'ha spedita da Palermo ed è bloccata a Trapani. E così mi è successo con lì, come con quel Zicon, quando l'ho mandato da Bianconi, è rimasto una settimana, lo stesso bloccato a Bologna. E non so cosa sta succedendo a queste poste, viaggiando lo stesso un'antenna che diranno che è stata respinta al mittente, non lo so cosa c'hanno in testa questi delle poste. Ma sono le poste oppure un privato? No, sono le poste che loro danno ingezione la roba al CDA, e poi i CDA sono dei cani. Se c'è qualcuno in frequenza che è dell'SDA, scusatemi, però siete dei cani. Quindi lui che qui non lo nego, perché è la verità, perché da quando c'è questa vita con le poste non si prende più provvedimenti di quando succedono dei danni, delle cose, sono una massa di criminali questa gente. È pronto a dimostrarlo perché a me mi hanno creato dei danni con un amplificatore audio che ho ordinato da Bergamo e mi hanno fatto 150 euro di danno, capito? Quindi ho tutto visto che sei arrabbiato. Sì, ho trovato questa Firenze 2 mai installata, e me l'ha venuta così, a titolo per non regalarmela. E tu pensi che ha pagato 14 euro di spedizione, quindi hai detto, visto il coso di soldi del favore, tu la spedizione te la puoi calamando. Franco, mai installata. Io non ho mai avuto quell'antenna lì, ce l'ha avuta un amico mio, ce l'ha avuta nel mio paese, e ti dico che era una bella antenna, funzionava benissimo, era perfetta, e poco stazionaria anche, e, diciamo da uno non saliva come stazionario, e ho detto da quell'amico mio. Però, caspita, hai trovato un'antenna così vecchia, nuova in pratica, va benissimo, caspita, e neanche poco anche freddo. Allora che te chiami? Era la Farone, la Firenze 2 è una buonissima antenna, caspita. Era nominata, in vecchi tempi era nominata, la Stardust, la Firenze 2, poi che ce n'era qualche un'altra che adesso non mi ricordo, però erano nominate. Sì, erano buone antenne. Vabbè, te la manderanno, dai, capito? Spero di sì. detto di sì, anche perché mi avevo voluto dire il gusto capitone, neanche per i 40 euro fra, perché sì, sono 40 euro, sono travagliati e sui pesi. Ma è per la soddisfazione di averla, di fare delle comparazioni e provarla, dai, e provarla, avere il gusto di provare questa Firenze 2. Proprio nuova, ancora con gli imballi originali, con la scritta nuova, è perfetta. E niente. Adesso con questo apparato qua sto usando una GPE mezz'onda, senza radiali, dalla Sirio. Una GPE.